9 in punto, la versione di Oscar. Oh, buongiorno cari ascoltatori, buon 15 di maggio, buon martedì. Il tema oggi è, per così dire, obbligato, pur tenendo sempre un orecchio aperto sulle lettere che continuano ad arrivarci per disperatimai@radio24.it. Il tema oggi è obbligato perché tutti lo avete capito, quando anche foste ascoltatori distratti della radio o telespettatori dei telegiornali che non hanno più voglia di sentirli, o non lettori dei giornali, visto che i giornali come carta stampata perdono sempre lettori, ma almeno internet, questo sì, è in crescita come strumento di informazione. Ma insomma, dovunque, il tema che oggi obbligatoriamente è in tutte le aperture dei media è quello che può avvenire o non avvenire all'euro. Siamo, dice ieri il Banco di Bilbao in una sua risposta alla Banca Centrale Europea, che gli aveva chiesto gli approfondimenti, il giudizio della Banca di Bilbao è che l'attuale crisi sia peggiore di quella di Lehman, almeno nell'euroarea. Sapete che siamo un po' tutti appesi a quanto avverrà ad Atene nelle prossime ore, nei prossimi giorni, perché si sono esauriti i 3 tentativi previsti dalla Costituzione greca per formare un governo, affidati nell'ordine ai 3 partiti che hanno ottenuto i migliori risultati elettorali alle elezioni dello scorso 6 maggio, le elezioni che dalla Francia alla Grecia, dalla Germania, confermato anche nel voto più importante in Germania nel Nordrhein-Westfalia domenica scorsa, hanno segnato un no della maggioranza degli elettori, un fragoroso no alle politiche, diciamo, di rigore unilaterale che agli occhi degli elettori, di tante imprese, eccetera, significano solo più grave recessione senza un meccanismo cooperativo. Ad Atene oggi il presidente della Repubblica, Carlos Papoulias, tenta un esperimento di governo delle personalità, di governo dei tecnici, chiedendo che i 2 partiti eurofili, cioè i conservatori di Nuova Democrazia, il primo partito, seppure solo al 20%, e il PASOK, che ha perso 30 punti ed è il terzo partito, considerino di aggiungere i loro voti, perché entrambi non arrivano sommati alla maggioranza, o all'ultimo partito che è riuscito a superare la soglia sinistra democratica, e questo basterebbe per avere la maggioranza, o a una delle formazioni, diciamo, di destra meno nazionalista, meno estrema, Greci Indipendenti, che hanno a loro volta 33 parlamentari. Syriza, che è il secondo partito, sinistra radicale, ha confermato che oggi si presenterà alle consultazioni, ieri non è andato, ma considera l'ipotesi di un sostegno a un governo a prescindere dal giudizio sulle personalità che dovessero formarlo, subordinato però all'ipotesi del no al nuovo pacchetto di rigore che era previsto, visto che gli obiettivi non sono raggiunti in Grecia, entro giugno, per avere diritto alla nuova tranche della seconda grande tranche di aiuti che la Grecia ha ottenuto in cambio del rigore. A dire la verità, dalle dichiarazioni dei leader greci di queste formazioni politiche nel corso della notte, sembrerebbe che qualche finestra di possibilità sia aperta, ma bisognerà vedere, perché com'è evidente, oramai fino al 23 maggio, che è il giorno in cui avverrà il nuovo Euro Summit per la prima volta con la presenza di François Hollande, che è diventato un po' l'alfiere agli occhi di tanti europei di questa linea di correzione del rigore unilaterale, il mercato ballerà come ha ballato ieri, la conferma che tenere d'ors non era proprio così sbagliato. Dal mondo come vedono questa crisi? La vedono un pochino come ha detto ieri il ministro delle finanze canadese Jim Flaherty, che a proposito della crisi dell'euroarea, parlando alla televisione CBC e rilanciato immediatamente dalla Reuters, ha detto che i ministri delle finanze europee dovrebbero contemporaneamente porsi due problemi. Il primo problema è quello di salvataggi credibili e il secondo è quello di dividere un'area dell'euro che oramai non ha più i fondamentali, o almeno così giudicano i mercati, per stare insieme, perché mercati dei beni, dei servizi e del lavoro separati non stanno con una moneta unica, l'ha detto ieri Jim Flaherty, il ministro delle finanze canadese. La Merkel come ha reagito allo schiaffo che ha ottenuto in Nord Rhenania-Vestfalia? Ha parlato di una sconfitta dolorosa, lo avete letto, ma che non modifica la sua linea all'eurotavolo, ed è una linea, diciamo, che potrebbe aprire ai project bonds infrastrutturali, ma continuando a dire no agli euro bonds per assumere una parte dei debiti pubblici sovrani in una quota di debito pubblico europeo, e no a ogni modifica del statuto e delle attuali attribuzioni della Banca Centrale Europea a sostegno degli paesi eurodeboli. Il Bild, il giornale popolare a cui spesso faccio ricorso, il giornale più popolare in Germania, ha 10 milioni di lettori, diciamo, è quello le cui aperture, i cui titoli danno l'idea di che cosa più arriva e contemporaneamente esprime l'EPA, la pancia tedesca dell'elettore tedesco. Nella sua edizione di oggi dice che è vero, la Merkel ha perso autorità e bisogna vedere se gliene resta abbastanza per continuare sia a imporre la linea tedesca nell'euroarea, sia anche ad avere una guida credibile e autorevole del governo tedesco. Nel frattempo, nella SPD, come scrive su Deutsche Zeitung, ci sono le conseguenze del voto Rhenania settentrionale Vestfalia, che ha visto l'affermazione di questa Annelore Kraft, che è espressione dell'ala sinistra del partito, quella più sociale, cioè di quell'area del Partito Socialdemocratico che è più lontana da personaggi come Pierre Steinbrück, che hanno collaborato nei governi di coalizione negli anni passati con i democristiani e sono più vicini alla linea del rigore. Quindi l'SPD, scrive su Deutsche Zeitung, a propria volta prenderà delle posizioni che sono più simili a quelle che escono fuori dalle urne europee. Ecco, ma nel caso in cui ciò che si considerava a torto impossibile, cioè l'uscita della Grecia a seguito di nuove elezioni a giugno, dovesse oramai profilarsi come uno scenario, bisogna ragionare sul fatto che una ciliegina tira l'altra e dopo la Grecia viene il turno anche degli altri paesi eurodeboli, e soprattutto che cosa questo significherebbe per i risparmi e per i patrimoni fin qui denominati in euro di ciascuno dei paesi, se non fosse solo la Grecia che si avviasse all'uscita? È davvero quella prospettiva di rilancio attraverso la svalutazione che tutti i nostalgici delle vecchie lire, della dracma, ma come della lira in Italia, immaginano e sognano per rilanciare l'economia? E quanto grave invece sarebbe l'abbattimento in termini reali, da svalutazione più inflazione, ma da svalutazione immediata in termini reali di tutti i patrimoni, di tutti i risparmi e di tutti gli asset delle banche come delle imprese italiane una volta che tornassimo a una lira? Nel nostro caso dobbiamo immaginare una svalutazione complessiva nell'ambito del 30-40%, come quella greca sarebbe nell'ambito fino al 60-70%. Come la pensate voi? Ecco, iniziate a telefonare. Noi oggi abbiamo scelto come guida un economista che spesso torna a questi microfoni, ed è un economista che da moltissimo tempo sul suo blog fastidio.net, fastidio è con il PH iniziale, ha messo in guardia sui rischi di una mancata convergenza dell'europolitica intorno a un meccanismo cooperativo. E Mario Seminerio è stato portfolio manager per società di gestione italiana e internazionale, oggi fa il portfolio advisor, e sul suo blog, appunto, fastidio.net, potete di giorno in giorno seguire l'evoluzione del suo pensiero. Io lo ringrazio di essere in studio a Milano, io sono a Roma, e inizio subito nel ringraziarlo a fargli una domanda, nel considerare qual è il suo giudizio di probabilità sull'uscita della Grecia e sul meccanismo a ciliegia, e nello spiegarci in un paio di minuti iniziali subito come la penserebbe nel caso in cui l'ipotesi si profilasse davvero. È un guadagno o è una perdita netta, di che proporzioni passare attraverso questa uscita dalla moneta comune? Intanto buongiorno e grazie a Mario Semineri. Sì, buongiorno Oscar, buongiorno a tutti gli ascoltatori. Diciamo questo, la possibilità di uscita della Grecia sta aumentando con il passare del tempo, con il passare delle settimane e con il passare dei salvataggi. Questo è abbastanza evidente, è una traiettoria che è in essere da almeno un paio d'anni e l'aggravamento è costante e reale. A questo punto siamo probabilmente all'ennesimo momento di rimente, nel senso che la posizione negoziale greca, o meglio la posizione di Syriza, che in questo momento è il giocatore che ha, diciamo, la mano apparentemente migliore, è quella di rinnegare il bailout, quindi cercare una sorta di condono parziale o totale delle manovre passate, ma anche di quelle previste per quest'anno, e però rimanere nell'euro. E questa è una posizione molto interessante, perché a questo punto nessuno legalmente può obbligare la Grecia a uscire. La verità è che se la Grecia dovesse decidere di smettere di pagare improvvisamente, ci sarebbe o ci dovrebbe essere il blocco immediato delle erogazioni successive, ma anche la sospensione immediata dell'assistenza della Banca Centrale Europea al sistema finanziario greco. Questo determinerebbe il collasso dell'economia greca nel giro, non dico di giorni, ma di ore. Per cui questa è apparentemente la posizione di Syriza e di Tsipras, è suicida, ma la verità è che loro ritengono che in questa sorta di braccio di ferro, in questa gigantesca mano di poker, chi abbia da perdere di più sia l'eurozona, perché ci sarebbe un effetto Lehman all'ennesima potenza, cioè un effetto Lehman agli steroidi. Trovo molto significativo che la stampa internazionale, il Financial Times, sabato abbia riportato l'opinione del, o forse è una sorta di voce dal sen fuggita, del numero due di Syriza, che ha detto: l'Unione Europea ci supplicherà di prendere i loro soldi. Quindi questo è l'ennesimo tipo di ricatto, anche se poi di ricatto non si può parlare, ma probabilmente la posizione negoziale di Syriza lo rende tale, che somiglia per molti aspetti, come è stato fatto notare da altri analisti. Citerei uno tra tutti, Alessandro Fugnoli, che è un bravissimo analista, oltre che umanista e filosofo, che lavora per una importante società di gestione italiana. La Grecia in questo momento somiglia molto alla Corea del Nord, del tipo: o ci sussidiate in un modo o nell'altro o noi proviamo i missili intercontinentali. E questo default minacciato da parte della Grecia è un missile intercontinentale, anzi un missile continentale a testata multipla, puntato su tutte le capitali europee, da Berlino, Parigi e soprattutto Roma e Madrid. Perché poi la cosa che nella posizione di Syriza e del suo leader Tsipras, che trova conferma nell'elettorato greco, o almeno in tutti i sondaggi pubblicati dalla stampa greca in questi giorni, è che i diversi sondaggi dicono che i greci, alla domanda ma voi preferite rimanere nell'euro o volete tornare alla dracma, a percentuali altissime, tra il 76, il 78, l'80%, confermano che loro vogliono rimanere nell'euro. Secondo te questo dipende più dalla consapevolezza dei guai a cui si va incontro nel tempestoso passaggio alla moneta nazionale, che significa banche chiuse per diversi giorni, ridenominazione di tutti i depositi e di tutte le operazioni in un sistema di pagamenti che deve tornare alla vecchia lira, inevitabile esplosione di contenzioso internazionale per passività e depositi all'estero, debiti delle imprese e delle banche che a quel punto rimangono a essere sull'estero denominati in una moneta che a quel punto diventa straniera, l'euro, ma che si sopravvaluta di molte decine di punti rispetto a quella nazionale. Dipende da questa consapevolezza, che io non so quanto sia diffusa a dire la verità, oppure semplicemente dal fatto che i greci capiscono che senza poi il sostegno dell'euroarea e del fondo monetario non ce la possono fare. È difficile entrare proprio nella mente della popolazione, ma certamente una uscita dall'euro in questo momento sarebbe veramente quello che definire un effetto catastrofico, un evento catastrofico sarebbe un pallido eufemismo. Io probabilmente la popolazione lo percepisce. Bisogna capire che la popolazione è stremata da anni di austerità, priva di senso, perché è costruita malissimo e gestita peggio, soprattutto a un ritmo che avrebbe ucciso chiunque, e questo lo sappiamo, e anche noi italiani per certi aspetti purtroppo stiamo cominciando a sperimentarlo. Ma se la Grecia dovesse tornare ad una propria valuta nazionale, sarebbe un processo terribile, perché si passerebbe attraverso una perturbazione inflazionistica violentissima, si tornerebbe a forme di baratto, ci sarebbero ovviamente moti di piazza, perché non ci sarebbero più pensioni, stipendi, ci sarebbe una transizione d'avvio che sarebbe estremamente sanguinosa. Quindi è evidente che se si deve cercare la strada del buon senso, è quella di gestire questo rientro fiscale in maniera non così violenta, ma molto controllata dall'esterno, e non passare all'uscita. Chi afferma che sia possibile uscire dall'euro in questo momento, con questo assetto istituzionale europeo, magari se ne può negoziare anche un altro, ma richiederebbe delle forme di assistenza estremamente delicate, chi afferma che sia possibile uscire dall'euro, prendersi la svalutazione, reincamminarsi come se nulla fosse successo, a mio modo di vedere, o non sa quello che dice o è in profonda malafede. E qua ci sono anche riflessi politici sulla nostra attualità italiana, ma a quelli non vorrei fare riferimento, perché il contesto è diverso, ciò di cui stiamo parlando questa mattina è diverso ancora per il momento. Esatto. Intanto ieri nella tarda serata Moody's ha declassato il giudizio di solvibilità, il rating, su 26 banche italiane, e ce ne sono diverse sulle quali l'abbassamento del giudizio è addirittura di 4 tacche, cioè una botta clamorosa. Ecco, iniziamo a parlare dell'ipotesi della ciliegia che tira l'altra. Nel caso in cui la Grecia, per una ragione o per l'altra, dovesse avviarsi a questo evento enormemente traumatico, ragionevolmente, secondo la stima che si vede nei numeri del mercato, che cosa avverrebbe in fila agli altri eurodeboli e all'Italia? Beh, tutte le ipotesi che vengono fatte sono esercizi intellettuali assolutamente, per certi aspetti, affascinanti, ma sarebbero destinati ad essere sconfessati dalla realtà. A me viene da pensare, e questi sono i miei 2 centesimi o 2 euro, che in un evento del genere i mercati smetterebbero pressoché immediatamente di comprare in asta il debito sovrano italiano, spagnolo, degli anelli più deboli della catena, ma probabilmente anche di una parte intermedia dell'Unione Europea, come potrebbe essere la Francia. Si libererebbero di posizioni residue di titoli di Stato italiani, che è un processo che comunque per molti aspetti sta andando avanti ed è stato contrastato e attenuato solo dalle due aste straordinarie triennali della BCE, che hanno consentito, attraverso l'intermediazione dei sistemi creditizi nazionali, di alzare la percentuale di possesso del debito posseduto da residenti italiani per mano delle banche. Che cosa succederebbe in quel caso? Io, a livello di impressione, di sensazione, di valutazione degli strumenti, credo che l'unica alternativa in caso di uscita della Grecia e di attacco immediato dei mercati sarebbe quello di una banca centrale europea che prende posizione con l'opzione nucleare, cioè che si compra il debito sovrano dei paesi attaccati a piedi lista in maniera incondizionata, probabilmente fissando uno spread massimo al di là del quale la banca centrale europea direbbe al mercato, alla speculazione tra virgolette, direbbe: bene, io vi aspetto a piede fermo, voi vendete, io compro, i prezzi non li muovo. E questa sarebbe, non li muovo al ribasso ovviamente, questo sarebbe una dinamica nettamente diversa da quel braccino corto che è stato il Securities Market Program, cioè quel piccoli acquisti di malavoglia con enormi mal di pancia che sono stati effettuati fino al lancio delle due aste straordinarie triennali, che non sono serviti a nulla se non ad accompagnare, esatto, l'allargamento degli spread. La mia idea in questa ipotesi è un'opzione nucleare della BCE per tenere fermi gli spread e sostituirsi al mercato che verrebbe a mancare improvvisamente. Io sono non molto d'accordo, ma d'accordissimo, per quanto concordi sul fatto che le previsioni sono del tutto ipotetiche di fronte a una scena di quel tipo, con questa cosa che ha appena detto Mario Seminerio. Non credo fermissimamente non credo che di fronte a un evento traumatico come quello che si mette in moto nel caso in cui la Grecia esca, la linea possa essere e sia e sarà, visto che l'Europa è un processo lungo e che nasce da guerre sanguinose e dalla volontà di non determinarle mai più sul continente europeo, non possa ispirarsi a quella leggerezza, superficialità che mi ha molto colpito, per esempio, in alcune posizioni nei giorni passati espresse da autorevolissimi esponenti del governo tedesco e delle istituzioni monetarie di quel paese, che hanno iniziato a dire: greci, possiamo andare avanti senza di voi. Questi messaggi dati a un mercato che da 2 anni e mezzo ha tutte le ragioni per non credere nel meccanismo di convergenza messo in atto dall'Europa, privo di una parte cooperativa, secondo me sono ispirati a una totale superficialità. Mentre credo anch'io che a quel punto, con tutti i difetti che ha l'europrocesso, l'euro senza mercati uniti, eccetera, eccetera, a quel punto non si potrebbe che immaginare una risposta di ultima istanza come quella che ha descritto Semeniero, quella BCE che dice: bene, prima di assistere al fatto che cade tutto, io compro e sfido i mercati, e credo che sarebbe la cosa da invocare, a dire la verità. Eccoci tornati qua in studio. Che tristezza ieri sentire il presidente degli Stati Uniti Obama, dopo i miliardi di dollari persi nuovamente su derivati da JP Morgan, dire: basta, riformiamo le banche. Era in carica lui o non era in carica lui quando il Congresso ha votato, dopo Lehman, la Dodd-Frank, la grande riforma delle banche? Tanto spesso tante volte l'abbiamo criticata qua per i suoi meccanismi troppo diluiti, per il fatto di avere confermato, in sintesi, che la politica americana resta captive, come si dice in gergo tecnico, cioè resta prigioniera dei soggetti regolati, cioè delle banche. Ed è un po' come se la politica, non avendo avuto la capacità, la volontà di dare criteri e regole nuove sugli asset ad alto rischio che le banche continuano a valutare secondo propri criteri, che è la ragione per cui la crisi esplose nell'estate 2007, per la stessa ragione la politica poi rifiuti briglie per rientrare dall'eccesso di debito pubblico finanziato, l'eccesso di consumo pubblico finanziato a debito. Le due ragioni di questa crisi, l'eccesso di consumi privati finanziato a debito e quello pubblico finanziato a debito, rifiutano le briglie entrambi, e da questo punto di vista le colpe della politica, dei regolatori pubblici, secondo me restano prevalenti. Questa è naturalmente la mia analisi, e io penso che sugli eccessi della spesa e del fisco italiano, la strada da battere ci sia l'euro, speriamo, o non ci sia, purtroppo resta quella. Basta che voi leggiate stamattina quello che ha detto la Corte dei Conti ieri sul pubblico impiego per avere una delle 100 milionesime conferme di quello che tutti i giorni noi diciamo qui. Tra pochi minuti, finita la trasmissione, io mi recherò alla manifestazione nazionale della filiera dei costruttori di Confindustria Lance, che ha deciso di passare alle vie legali, di portare lo Stato che non paga alla sbarra. Decreti ingiuntivi e procure contro lo Stato che non paga i suoi debiti, esattamente come è giusto farlo nei confronti di chiunque non paghi i suoi debiti. Questo è il quadro nel quale ci interroghiamo oggi di che cosa avverrebbe nel caso in cui la Grecia uscisse dall'euro. Iniziamo a sentire alcuni di voi. Francesco da Imola, prego Francesco. Ciao Oscar, buongiorno. Buongiorno. Ti volevo raccontare una piccola esperienza in merito anche al fatto che dicevi che gli stati non pagano i propri debiti. Io ho comprato del debito greco, delle obbligazioni greche che davano un tasso ovviamente altissimo negli ultimi periodi, sono stati 6-7 mesi fa. E poi ti sei fatto sedurre dagli alti rendimenti, ma dovevi sapere che il rischio era elevato. Esatto, assumendomi il rischio elevato, l'anno scorso sono andato al casinò, ho puntato 20 euro sul 23, come aveva detto mio padre, ho vinto 400 euro, sono uscito immediatamente dal casinò e non sono mai più entrato, e forse non c'entrerò più. E con la Grecia com'è andata? Con la Grecia è andata bene, nel senso che ho puntato i miei soldi su poche migliaia di euro, pochissime, su debito greco, e ho ricevuto una cedola, penso, di 500 euro, E un mese dopo la banca mi ha proposto quello che adesso voi sapete meglio di me, io non so come si chiami, ma un cambio. Ha detto: guarda, non riusciamo a pagare, la Grecia non può pagarti, se vuoi accetta il 30% di quello che hai dato. Io non ho accettato, penso insieme all'altro 6-7% di chi aveva il capitale, il debito greco, e non ho accettato. Mi aspettavo che o la Grecia fallisse e uscisse dall'euro oppure venisse pagato. E invece no, non sono stato pagato, mi hanno dato un centesimo nell'ultima cedola, è arrivata un centesimo di accredito e apparentemente adesso ho dei titoli a scadenza, non so quando, e non ci ho più capito niente. Francesco, però dovevi saperlo, perché per la Grecia era stato deliberato, e questo ha potentemente contribuito al crollo della credibilità dell'euroarea nel vertice di Deauville il maggio di un anno e mezzo fa, la compartecipazione dei titolari del privati del debito greco al meccanismo di risanamento, quindi meccanismo che ha fatto capire al mercato che si andava a catena di fallimenti possibili, tanto è vero che qualche mese dopo poi Grecia e i tedeschi e i francesi hanno detto no, ma varrà solo per la Grecia. Naturalmente il mercato non ci ha creduto, e quindi la percentuale del consolidamento del tuo debito, cioè dell'abbattimento del valore patrimoniale del tuo capitale, nonché del cambio, dello swap di titoli a più lunga scadenza, a più basso rendimento, Francesco, era un meccanismo pubblico. Questo è la cosa che dovevi sapere. Mario, che cosa possiamo dire a chi ha preso titoli del debito pubblico greco? Beh, che andavano concambiati, bisognava prendere la perdita, concambiarli e tenere quelli nuovi. Pensare di poter tenere quelli vecchi e arrivare a prendere cedola e capitale nella loro interezza, diciamo che non aveva comunque molto senso, ecco. Perché sì, comunque i privati vengono squisati, come si dice in gergo, cioè devono cacciare i soldi, sono finiti imprigionati e c'è poco da fare, non ci sono molte vie d'uscita, ecco. Esattamente. Matteo da Prato, sentiamo. Matteo, prego. Buongiorno, sono da Parma comunque, adesso non cambia molto. Volevo semplicemente dire una cosa. Secondo me l'uscita della Grecia dall'euro e il ritorno alla dracma è completamente inutile per la Grecia stessa, se non cambia il modo di stampare la moneta praticamente. Se la dracma verrà stampata sempre da organismi privati, si avrà sempre un debito pubblico, mentre se lo stamperà uno Stato nazionale non si avrà debito pubblico, semplicemente questo. Non è che sia contro l'euro, sono semplicemente contro la privatizzazione dell'euro, perché oggi l'euro sappiamo che è stampato da banche private, da una banca privata sostanzialmente. E non è vero che creerebbe inflazione, perché come diceva Keynes, semplicemente stampando moneta, destinandola praticamente a opere pubbliche, a quello che serve, non si crea inflazione. Poi se si creerebbe inflazione si saprebbe di chi è la colpa, cioè dei politici che hanno la possibilità di stampare la moneta, mentre oggi è tutto uno scaricabarile fra banche private e politici, semplicemente questo. Matteo, non sono per niente d'accordo. Sentiamo un'altra telefonata, poi do la parola a Seminario. Marco dalla provincia di Monza Brianza, prego Marco. Buongiorno Oscar, io sono un ignorante odontotecnico, non ho le competenze del suo ospite, ma forse proprio per questo credo che la ricetta che vado a fornire possa essere quella giusta. Siamo il paese che ha l'arte migliore al mondo, la cucina migliore al mondo, e turismo su cui si potrebbe tranquillamente contare, per cui chi vuole tutte queste cose deve varcare i nostri confini e venire qua a portare la loro moneta. Ergo? Quindi questo ci permette di uscire, dal mio punto di vista, assolutamente tranquilli dall'euro, e si va a recuperare subito domani mattina dai signori che hanno evaso 98 miliardi col settore giochi. Con queste ricette l'Italia riparte e fa la sua strada. Grazie Oscar, buongiorno. Marco, io devo dire che penso che questa luminosa serenità che esprimono le tue parole, ma sì, siamo forti di asset nostri, usciamo sereni, picchiamo in testa qualcuno dei grandi evasori e ripartiamo, io credo, anzi temo, che sia molto diffusa e mi preoccupa molto. Sentiamo Seminario come risponde alle due osservazioni, quella della presunta politica monetaria privata della BCE e questo invece sul fatto che ci guadagna l'Italia, ci può guadagnare. La prima osservazione La domanda che mi viene spontanea è che non capisco quali sarebbero le entità private che emettono l'euro, diciamo. Credo che, con tutto il rispetto, diciamo, per chi ha formulato l'opinione, queste siano le solite tesi signoraggiste che servono a ridurre l'ansia, ma che non hanno nessuna capacità di leggere la realtà. E per quanto riguarda poi riguardo l'inflazione, beh, se proviamo a stampare continuamente per cercare di estrarre reddito da signoraggio, quello vero, e comprare beni e servizi, a un certo punto sfuggirà di mano questo processo di stampa di moneta. Sto parlando di un ritorno della Grecia alla dracma per coprire tutti i buchi di bilancio e non far soffrire la popolazione. La popolazione si rifiuta di tenere in tasca dei pezzi di carta che non hanno nessun valore e si implode. Quindi nella prima fase c'è una fortissima perturbazione inflazionistica, non c'entra nulla Keynes, non c'entra nulla il fatto che si possa contrastare l'inflazione, quello è in tutto un altro contesto. Per quanto riguarda la posizione dell'ascoltatore Marco, vabbè, noi abbiamo il sole, il mare, la pizza e quant'altro, possiamo continuare ad averlo con l'euro o con una nostra moneta, con una moneta comunitaria e nazionale. Il problema non è quello e non è neppure il recupero dell'inflazione. La tragedia di tutta questa vicenda, purtroppo, è che non è trattabile, non è gestibile con la bacchetta magica, non ci sono soluzioni immediate, ma queste non le ha nessuno, dalla Merkel fino a finire all'ultimo di noi che cerchiamo quotidianamente di vivere un'esistenza senza angosciarci troppo. Per cui non esistono soluzioni facili come sono purtroppo quelle che sono state proposte. Allora, ora andiamo al minuto di informazione sulle strade. Thomas Sargent, che è un economista, diciamo, di idee toste e talvolta di uscite singolari, non c'è tempo qui adesso perché vi spieghi, perché ha detto due giorni fa, di fronte a chi gli chiedeva un'opinione su quale fosse la sua ricetta nel caso molto probabile, condiviso anche da Sargent, di una necessaria uscita dalla Grecia dall'euro, ha detto: ma qual è il problema? Basta che facciano come Panama, cioè basta che colleghino unilateralmente la propria moneta a un cambio fisso con il dollaro e danno a noi, che siamo detentori del tallone monetario mondiale, il dollaro resta il dollaro, non è l'euro, affidano a noi la loro politica monetaria. Dopodiché devono semplicemente, ovviamente, attenersi a una finanza pubblica che sia coerente per la difesa del cambio fisso. E questa strategia si chiama il PEG, il vincolo di cambio a una moneta leader, una delle strade seguite da paesi in fortissimo disordine. È una via complicata da seguire, si è dimostrato così nella storia, e non ha evitato a paesi che l'avevano adottata anche sfasci molto clamorosi con conseguenze sociali bestiali, però è una delle possibilità tecniche per paesi che si trovassero nel caos in cui possono entrare se avviene la tragedia greca. E mentre tornano i Doors, negli sms che arrivano al nostro 349-238-6666, una tesi, diciamo, maggioritaria rispetto a chi ha inviato sms negli ultimi minuti, l'ultimo quarto d'ora, è quella che all'Eurotavolo, piuttosto che l'uscita rovinosa per risparmi e patrimoni di cittadini e imprese di paesi eurodeboli dall'euro, ci sia la possibilità di trattare il fatto che a uscire siano invece la Germania e i pochi eurovirtuosi che ne condividano la linea, loro che escono dall'euro, perché nel meccanismo loro rivaluterebbero, non abbatterebbero ovviamente il valore reale di risparmi e patrimoni, e quindi il meccanismo sarebbe meno grave. Sentiamo ancora l'ultima telefonata e poi torniamo da Seminerio per commentare queste diverse ipotesi. Adriano da Bergamo, prego Adriano. Buongiorno dottore, tutto rispetto per il suo programma. Quello che volevo dire, molto breve, è il mio parere che in Germania, nel caso che euro cadrà, troverà una marca molto molto potente che davanti alle altre monete molto deboli dei altri paesi avranno in conseguenza pure i prodotti molto che faranno concorrenza ai prodotti tedeschi. Perché certo, loro rivalutando, se tornassero al marco, avrebbero un peggioramento delle ragioni di scambio monetarie, è ovvio, certo, ha perfettamente ragione. Quindi per loro export nel mondo le condizioni si farebbero più complicate. Questa è una delle conseguenze che la Germania deve mettere in conto. La Germania ci ha guadagnato in questi anni sotto diversi punti di vista, prima perché il cambio, che comunque è stato più alto di quello che era utile, ha inglobato l'andamento degli euro deboli, secondo perché i mercati sono corsi a finanziare a tassi negativi il suo debito pubblico e idem anche l'afflusso di capitali. Seminerio, che dire delle varie ipotesi di un peg al dollaro per chi vuole o dell'uscita invece dei tedeschi e degli euro virtuosi? Allora, per quanto riguarda il peg al dollaro, in alcuni casi il processo di dollarizzazione si forma come conseguenza di caos monetario, nel senso che nella stessa Albania, dopo la caduta del comunismo, il dollaro circolava liberamente, non era un peg ma era una conseguenza di un crash monetario. Il vero peg al dollaro, o un currency board di rapporto 1-1, cioè un dollaro per ogni valuta locale, lo ha tentato l'Argentina, sappiamo come è andata a finire perché non aveva il mezzo per reggerlo. Un altro che sta usando il currency board 1-1 col dollaro è l'autorità monetaria di Hong Kong, ma loro sono Hong Kong, voglio dire, possono permettersi di sfidare qualunque mercato mondiale. Per quanto riguarda invece l'uscita eventuale della Germania, ho dei seri dubbi, della sola Germania, ho dei seri dubbi perché immediatamente, nel momento in cui ci fosse il sentore di un'uscita effettiva, negoziata e codificata, ci sarebbe un immenso afflusso di capitali dal resto dell'Eurozona alla Germania. Quindi sarebbe necessario imporre dei controlli valutari molto forti. Inoltre non credo che un euro ex Germania, cioè senza Germania, resterebbe in configurazione attuale, perché comunque sarebbe popolato da paesi che, per quanto relativamente più omogenei, avrebbero forse più interesse a tornare a valute nazionali, per cui io onestamente non vedo l'uscita della Germania come una soluzione, non la vedo neppure come una soluzione tecnicamente fattibile. Ragionevolmente, fossi tu al tavolo dell'Eurovertice, proponiamoci come scenari impossibili, ma che cosa proporresti invece ai governi e alle autorità dell'euroarea per evitare tutto ciò che stiamo tentando di spiegare oggi, essendo le condizioni note, quelle della Grecia, della Spagna, del suo sistema bancario e dell'Italia? In primis un rallentamento del processo di consolidamento, quindi quello che attualmente viene fatto in 2 anni dovrebbe essere fatto in 4 o 5, un aumento del controllo da parte dell'Unione Europea su questa implementazione di austerità e probabilmente dei project bond passando attraverso la Banca Europea degli Investimenti. Sarebbe una goccia nel mare, ma stabilizzerebbe almeno il sentiment. Poi da lì in avanti ce la possiamo giocare. Perfetto, una voce di ragionevolezza per noi tutti. L'appuntamento è a domani e speriamo in bene. Intanto, d'orso, ovviamente. A oltranza, a domani.